Sanpei, Sanpei, pescatore, grandi orecchie a sfatola, sorriso di sole, Sanpei. Che sarà? Pesce, cane, spada, che sarà? È questione di momenti, abboccherà. Amica tua, una canna fatta di magia, e quell'amore una calamita, impossibile cambiare strada. Sono allibito da quello che è successo ieri. Se dovessi cercare di definirlo in poche parole, direi che è scattata la guerra a un ospedale. Ora, io credo che soltanto persone in malafede possono anche solo per un secondo pensare che medici e infermieri decidono di passare anni della loro vita ad aiutare il popolo afghano a lavorare là con il segreto intento poi di far saltare il cretino di turno che è questo governatore, insomma, non conta assolutamente nulla. È chiaramente una grossa montatura. Perché questa guerra all'ospedale di emergency? Che si vuole togliere di mezzo il testimone scomodo? Prima di lanciare un'ulteriore offensiva di bombardamenti su quelle regioni. L'ospedale ha curato da anni tutti i feriti di guerra, quasi 60.000 visite ambulatoriali e abbiamo avuto più di 10.000 ricoveri. Ed è un ospedale che ha curato i feriti in quanto persone bisognose di soccorso. Questo è esattamente in linea con tutte le convenzioni e trattati internazionali che per anni, durante i lunghi anni della guerra afghana, sono stati di solito rispettati fino in tempi recenti. Oggi tutto questo non è possibile. Molti feriti dei bombardamenti hanno visto negato il diritto ad essere ricoverati in un ospedale. Non si è permesso l'evacuazione dei feriti, non si è aperto nessun corridoio umanitario. L'emergency ne è stato testimone. Forse questa è la chiave di lettura, che l'emergency è un testimone scomodo, e allora conviene toglierlo di mezzo. Quello che preoccupa è che queste azioni, chiaramente contrarie al diritto internazionale, vengono oggi effettuate giornalmente dalle cosiddette forze della coalizione, delle quali il nostro paese fa parte. Noi abbiamo, paradossalmente, forze italiane che proteggono e difendono il governo che arresta medici italiani, il governo che si permette di dichiarare guerra a un ospedale che per anni ha curato le popolazioni di quelle zone. Vorrei ancora fare un invito ai tanti italiani che conoscono il lavoro di Emergency e che lo sostengano a far sentire la propria voce. Non è pensabile che personale umanitario italiano sia sottoposto. Chiaro è che c'è una guerra a quell'ospedale, con accuse assolutamente grottesche, irrisorie, insomma, non credo che nessuno sia così imbecille da pensare che un medico italiano, dopo aver lavorato anni in Afghanistan, decida di voler mettere una bomba nell'ufficio del governatore di una sperduta provincia. Si tratta di un'azione premeditata, molto grave, anche perché compiuta non soltanto dalle forze afghane ma anche dalle forze della coalizione internazionale. Abbiamo visto militari inglesi all'interno del nostro ospedale con fucili mitragliatori. E quindi si tratta di un'aggressione che è compiuta da quelle forze che sono in Afghanistan, a loro dire, per portare pace e democrazia. Tra quelle forze della coalizione c'è anche il nostro paese. Ora io trovo una contraddizione evidente. Che il nostro paese spenda 2 milioni di euro al giorno per tenere 3.000 soldati in Afghanistan per difendere quel governo, che poi dopo arresta con una provocazione i medici italiani che sono lì per curare i feriti. Nonostante tutte le bugie che la politica ha detto negli anni scorsi, negli ultimi anni in realtà direi che è stato riconosciuto apertamente che siamo in Afghanistan a fare la guerra. Ma per anni si è detto che si era lì sostanzialmente per la stabilità, la pace, a far attraversare la strada alle vecchiette, per capirci. Adesso si ammette che si sta lì a fare la guerra. Ecco, tutto questo ci fa pensare che in realtà l'ospedale di Emergency sia un testimone scomodo, perché quando si fa vedere i volti, le facce di chi viene bombardato, di quelli a cui si fa la guerra, e queste facce nel 40% dei casi sono bambini di 5, 6, 7 anni, risulta poi difficile dire che si sono bombardati pericolosissimi terroristi, si sono bombardati dei bambini. E quindi capisco che dia fastidio, insomma, chi è lì a far la guerra, che si faccia vedere il risultato delle loro azioni. Ricordiamo che questa è una delle più grandi campagne delle forze internazionali. Quanti giornalisti ci sono a documentare quello che sta succedendo? A me risulta che non ci sia un giornalista al mondo che segue questo. Le notizie sono notizie dei comandi militari, non dei giornalisti. La libertà di informazione è morta anche quella sotto i bombardamenti. Con il Ministero degli Affari Esteri siamo in contatto continuo e anche loro si stanno adoperando perché questa crisi si risolva velocemente. Con i nostri operatori non abbiamo avuto nessuna possibilità di essere in contatto, anche questo in palese violazione di ogni diritto internazionale. Speriamo di riuscire a contattarli quanto prima. Adesso incominciamo a garantire la libertà al nostro personale, poi faremo tutte le riflessioni del caso sulle condizioni di sicurezza per poter continuare il nostro lavoro. Basti pensare che proprio nella città dove è nato Rahmatullah, in tutta quella regione, oggi si sta svolgendo quella che la NATO chiama la più importante operazione militare della NATO degli ultimi decenni. Ora, questa fondamentale operazione militare, secondo la NATO, avviene nella totale e integrale assoluta assenza di informazione. È perfino calata la maschera di quel giornalismo fasullo che era il giornalismo embedded dell'Iraq, cioè giornalisti a seguito delle truppe. Perfino quello è caduto. Oggi non si vuole nessuno che non siano militari e spie. Questa cosa è una debacle enorme per qualsiasi concetto di civiltà, per qualsiasi concetto di democrazia, per qualsiasi concetto di cultura. Il fatto che una parte del mondo dove si stanno compiendo crimini venga esclusa e negata dalla possibilità di informare i cittadini del mondo, io credo sia di per sé un altro crimine. E allora è lì che la nostra presenza era diventata scomoda. Scomoda la presenza di Emergency, era diventata scomoda la presenza di una realtà come Peace Reporter, che riportava regolarmente le storie personali di tutti i feriti dai bombardamenti che arrivavano nei nostri ospedali, ovviamente, quindi un punto di osservazione limitato ma pur sempre importante. Ecco, questa cosa andava spazzata via in qualche maniera. Non ci sono riusciti. Io credo che non ci siano riusciti per due ragioni. La prima è stata la grande mobilitazione qui in Italia. Non credo sia successo in passato di vedere così grandi mobilitazioni per una persona incarcerata che non fosse un italiano. Certamente non negli ultimi anni, non ci siamo più abituati a questo spirito, a questo male. E invece qui è successo, c'è stata una grande mobilitazione straordinaria. La seconda ragione è stata la straordinaria mobilitazione in Afghanistan, della quale i giornalisti spioni che ogni tre giorni fanno un'intervista al vice capo dei sottoservizi segreti del quartiere 7 non hanno mai scritto un rigo. Non hanno mai scritto di quante decine e decine di delegazioni compreso una delegazione del paese natale di Karzai, si sono recate dal presidente. Gli afghani non si mobilitano come noi, e spero che nessuno venga in mente di bombardarli per questo. Si mobilitano in altre forme, cioè parlano all'interno delle moschee, con i leader religiosi, con i capi dei villaggi, con gli anziani e poi da lì con le autorità, e portano quello che è il sentire della gente sui vari problemi. Grazie, è un grande onore per me. Piccola, una presentazione me la sono tenuta. Un grande onore per me ricevere su questo palco il fondatore di Emergency, Gino Strada! Ciao, buonasera. Grazie. Grazie. Buonasera. Non possiamo sprecare televisione. Io sono qui questa sera perché vorrei dirvi che c'è una forma di censura che me spaventa particolarmente e che io da medico preferisco chiamare anestesia, che è l'anestesia che stanno cercando di fare ai nostri cervelli, raccontandoci delle storie, delle grandi bugie. Tutti i giorni ci dicono cose su come sta andando la guerra al terrorismo, parola che ormai viene usata bipartisan, senza chiedersi neanche cos'è. Allora io sono certo che se chiediamo a un cittadino di New York che cos'è il terrorismo, dirà che sono le torri che gli crollano addosso con un sacco di gente e di bambini dentro. E sono certo che se chiediamo ai curdi che cos'è il terrorismo, diranno che sono i gas chimici di Saddam. E se lo chiediamo ai ceceni, diranno che sono i bombardamenti a tappeto su Grozny. E se lo chiediamo ai popoli dell'America Latina, diranno che sono tutti i colpi di Stato e i desaparecidos che hanno avuto negli anni. E se lo chiediamo ai palestinesi, diranno che sono i carri armati che gli spianano le loro case. E se lo chiediamo ai ragazzi che frequentano le discoteche di Tel Aviv, diranno che è un'autobomba in una discoteca. Allora ciascuno ha la sua forma di terrorismo. Non è questa la guerra che si sta combattendo. Anche perché chi la combatte, veramente, non ha nessuna credenziale per combattere quella guerra. Perché chi lo combatte, e io credo che dobbiamo avere il coraggio di dircelo, chi dice di combattere questa guerra sono gli stessi che hanno usato la più micidiale arma di terrorismo contro l'umanità, cioè la bomba atomica. E allora io credo che ci sia una sola via d'uscita, che è quella che noi cittadini cominciamo a riflettere con la nostra testa, sul fatto di che cosa sta davvero succedendo. Quello che c'è in atto non è una guerra al terrorismo, è una guerra contro i poveri del mondo. Questa è la guerra. Perché restino poveri, perché siano sempre più poveri. Io credo che dobbiamo riprendere in mano noi cittadini la situazione, incominciando a comunicare tra di noi, a parlarci, a trovarci nelle piazze, a parlarci davvero guardandoci negli occhi e a capire che un mondo senza regole, un mondo senza etica, è un mondo che non sta in piedi, che al massimo va a autodistruggersi, ma non sta in piedi. Non sta in piedi un mondo dove la sanità è privata, non sta in piedi un mondo dove la scuola è privata, non sta in piedi un mondo dove l'informazione è privata, non sta in piedi. E credo che dobbiamo anche dire da cittadini che noi non vogliamo più vedere il fin della violenza, in tutte le sue varianti, di terrorismi di Stato, di gruppi, di individui, in tutte le sue varianti, perché alla fine c'è sempre un risultato solo, sono pezzi di noi che vanno a brandelli. Cioè, quando parliamo delle guerre degli ultimi anni, negli ultimi anni milioni di persone sono morti per le guerre, in stragrande maggioranza civili, al 90% civili. Ma quanti geni abbiamo perso? Quanti pittori, quanti artisti, quanta umanità abbiamo perso? Allora bisogna trovare il modo di eliminare questo cancro, il cancro della guerra, questo è il vero nemico, il vero mostro. Secondo me, se noi cittadini ricominciamo a parlarci, ce la facciamo. Ciao, grazie. Grazie. Grazie tantissimo. Mi dica, dottore. Grazie tantissimo. Strada. Direi che questo è molto importante. Questo non lo so, non dipende. Non parlare, se dice lei. C'è. Lascia parlare me. Sì. Di sì o no. Senz'altro, dottore. Signore, dottore, che sai? Sì, ti ho detto, ma non posso che... Anche tardi se tu vuoi. Sì, dottore, non è questo. Intanto non dormire. Va benissimo, ma è la... Quanto mi manchi non sa. D'accordo, ma è questo più che altro... Mi ami o no? Ma ci può giurare, dottore? Non credo proprio. Ma lei adesso dov'è? Come dov'è? Vicino a te. Ma sì, ho già detto prima, dottore, sempre. Ho sciolto tutti i capelli giù. Sì, dottore. Il profumo che... Sì. Gino Strada, domani lei parte per Khartoum con quale spirito? Parto contento di tornare a fare il mio lavoro, cioè quello di fare il chirurgo. È stato un periodo molto difficile per me personalmente, non per Emergency, perché nonostante la tragedia della morte di Teresa, Emergency ha reagito molto bene, c'è molta voglia di fare, c'è un crescente consenso. Quindi alla fine sono contento di tornare a passare 12 ore al giorno in sala operatoria, penso mi farà bene. Lei torna in Afghanistan a pochi giorni dall'attentato dove sono morti 6 paracadutisti italiani, ecco. Come cambia il suo lavoro alla luce di quanto è successo? Assolutamente niente. Io ho vissuto 7 anni della mia vita in Afghanistan, non mi ricordo un giorno in cui sono morte meno di 10 persone, quindi... C'è differenza fra la presenza militare in operazioni definite di peacekeeping e l'attività dei volontari di Emergency? Beh, non c'è soltanto differenza, sono cose opposte e che non hanno e non devono avere nessun punto di contatto. Perché si chiama tra l'altro peacekeeping il fare la guerra? Io trovo che il fare la guerra debba essere chiamato fare la guerra. Il peacekeeping deve essere di necessità fatto con i mitragliatori puntati? Io non credo. Sono anche stufo di tutte queste bugie. Insomma, che almeno un paese abbia il coraggio di dire partecipiamo a un'occupazione militare, si prende la responsabilità, ecco, ma almeno non spacciamo l'attività dei militari per un'attività di peacekeeping umanitaria, di aiuto alle popolazioni, perché se dovessimo davvero prendere sul serio queste bugie, allora quantomeno verrebbe a dire che sono una massa di cretini, perché per distribuire due caramelle spendono 20 milioni di euro, quindi insomma dire che è soltanto una bugia. Che se avessero costruito scuole e ospedali non gli avrebbero sparato addosso. Sì, non ho il minimo dubbio, noi facciamo ospedali e non ci sparano addosso, se i militari fossero rimasti a casa loro certamente, ma il problema è molto semplice, qui siamo in Italia, se domani mattina ci fossero 150.000 soldati di 30 paesi che scorazzano per le nostre strade, arrestano, bombardano, sparano, ammazzano, detengono chi vogliono, cosa succederebbe in Italia? Tutti agiterebbero le bandierine di vari paesi? Oppure ci sarebbe una qualche risposta anche un po' incazzata, diciamolo pure? Spana il fronte del ritiriamoci, quando c'era il governo Prodi era soprattutto la sinistra radicale, ora c'è la Lega. Come valuta queste posizioni italiane? Ma io non faccio il politico, quindi non le valuto in termini di posizioni di partito. Noi siamo sempre stati per, non per ritiriamoci, per non andiamoci. La politica nel suo complesso sceglie la guerra, una cosa che abbiamo visto fare indifferentemente dai governi di centrodestra e di centrosinistra. Questa è una miopia oltre che un crimine, e quindi io sono convinto che l'unica cosa ragionevole da fare sia quella di smettere di far finire l'occupazione militare dell'Afghanistan come di altri paesi, insomma. Siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare. Di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Sono in mezzo al mare, ma profondo il un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un aviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, i